135. Salsa del Papa. Non crediate che questa salsa prenda il nome dal Papa del Vaticano, ritenendola perciò una delizia in ghiottoneria, nonostante è discretamente buona per condire le cotolette fritte. Prendete un pugnello di capperi e spremeteli dall'aceto, prendete tante olive indolcite che levando loro il nocciolo riescano in quantità uguale ai capperi, e tritate gli uni e le altre minutamente con la lunetta. Mettete al fuoco un battutino di cipolla tritata fine con un pezzetto di burro e quando avrà preso colore bagnatelo a poco per volta con acqua perché si disfaccia. Versateci dentro il miscuglio di capperi e olive e fate bollire alquanto. Unite infine un gocciolo d'aceto, una presa di farina e un altro pezzetto di burro. Per ultimo aggiungete un'acciuga tritata e senza più far bollire la salsa, servitela.